ma mamma lo sai chi c'è? Senti questa canzonetta, è tornato in gondoletta, è tornato in gondole. Mamma, mamma lo sai chi c'è? Senti questa canzonetta, è tornato in gondoletta, è tornato in gondole. E il dindondero! Miguel Sofì! E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel. Miguel son sempre mi! Voga e va la gondoletta che diventa un teatrino, che simpatico Arlecchino, che simpatico Arlecchin. Voga e va la gondoletta che diventa un teatrino, che simpatico Arlecchino, che simpatico Arlecchin. El dindondero! Mamma lo sai chi c'è? Cade giù la neve fitta, è tornato sulla slitta, è tornato sulla slitta. Mamma, mamma lo sai chi c'è? Cade giù la neve fitta, è tornato sulla slitta, è tornato sulla slitta. È il dindondero! Com'è bella quella slitta che ci porta tanti doni, tutti i bimbi sono buoni, tutti i bimbi sono buoni.